Azumar. I gruppi. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. La rivelazione del libro proviene da Allah, l'Eccelso, il Saggio. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din. In verità ti abbiamo rivelato il libro con la verità. Adora dunque Allah e rendigli un culto sincero. Ala lillahi ad-dinu al-khalis wal-ladhina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkum بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Non appartiene forse ad Allah il culto sincero? Coloro che si prendono padroni all'infuori di Lui si giustificano dicendo: li adoriamo solo perché ci avvicinano ad Allah. Giudicherà tra loro Allah in merito alle loro divergenze. Allah non guida chi è bugiardo, ingrato. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Se Allah avesse voluto darsi un figlio, avrebbe scelto chi voleva tra ciò che ha creato. Gloria a Lui. Egli è Allah, l'unico, il dominatore. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. Ha creato i cieli e la terra in tutta verità. Arrotola la notte sul giorno e il giorno sulla notte. E il sole e la luna ha costretto a orbitare fino a un termine stabilito. Non è forse Lui l'Eccelso, il Perdonatore? خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Vi ha creati da un solo essere, da cui ha tratto la sua sposa. Del bestiame vi diede 8 coppie. Vi crea nel ventre delle vostre madri, creazione dopo creazione, in 3 tenebre successive. Questi è Allah, il vostro Signore. Appartiene a Lui la sovranità. Non c'è altro Dio all'infuori di Lui. Come potete allontanarvi da Lui? In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bidhati s-sudur. Se siete miscredenti, sappiate che Allah è colui che basta se stesso, ma non accetta la miscredenza dei suoi servi. Se invece siete credenti, se ne compiace. Nessuno porterà il peso di un altro. Ritornerete poi al vostro Signore, ed Egli vi informerà in merito a ciò che avrete fatto, poiché Egli conosce quello che c'è nei petti. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمت بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Quando una sventura lo coglie, l'uomo invoca il suo Signore e si volge a Lui pentito. Poi, quando Allah gli concede una grazia, dimentica la ragione per cui si raccomandava e attribuisce ad Allah con simili per allontanare gli altri dalla sua via. Dì a codesto uomo, goditi la tua miscredenza. In verità, sei tra i compagni del fuoco. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ma come? Chi passa in devozione le ore della notte, prosternato e ritto, timorato per l'altra vita e speranzoso nella misericordia del suo Signore, di sono forse uguali coloro che sanno e coloro che non sanno? Solo gli uomini dotati di intelletto riflettono. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Di, o miei servi che credete, temete il vostro Signore. Coloro che in questa vita fanno il bene, avranno un bene. Vasta è la terra di Allah. Coloro che sono perseveranti riceveranno la loro incalcolabile ricompensa. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Di, mi è stato ordinato di adorare Allah e rendergli un culto puro. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. Mi è stato ordinato di essere il primo di coloro che gli si sottomettono. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Di, se disobbedisco al mio Signore, temo il castigo di un giorno terribile. قل الله أعبد مخلصا له ديني. Di, è Allah che adoro e gli rendo un culto puro. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Adorate pure ciò che volete all'infuori di lui. Di, coloro che nel giorno della resurrezione constateranno la rovina delle loro persone e delle loro famiglie, saranno i veri perdenti. Non è forse questa la perdita palese? لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Avranno sopra di loro nuvole di fuoco e nuvole di fuoco sotto di loro. Ecco la minaccia di Allah ai suoi servi. O miei servi, temetemi. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. Annuncia la lieta novella a coloro che si separano dagli idoli per non adorarli e si inchinano ad Allah. Annuncia la lieta novella ai miei servi. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Che ascoltano attenti la parola e obbediscono a quanto di meglio essa contiene. Essi sono coloro che Allah ha guidato, sono i dotati di intelletto. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. Ma come? Quello il cui castigo è già deciso, potrai salvarlo dal fuoco? لَكِنِ الَّذِينَ اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Coloro che temono il loro Signore abiteranno agli alti piani, al di sopra dei quali sono stati costruiti altri piani, e sotto di loro scorreranno i ruscelli. Promessa di Allah. Allah non manca la sua promessa. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Non vedi dunque che Allah ha fatto scendere l'acqua dal cielo e poi l'ha guidata nella terra verso fonti sgorganti? Quindi per suo tramite fa germinare graminacee da diversi colori che poi appassiscono e così le vedi ingiallite. E infine ne fa secchi frammenti. Certo, questo è un monito per coloro che hanno intelletto. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Colui cui Allah apre il cuore all'Islam e che possiede una luce che proviene dal suo Signore. Guai a coloro che hanno i cuori insensibili al ricordo di Allah. Essi sono in errore evidente. Allah nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mathani. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah ha fatto scendere il più bello dei racconti, un libro coerente e reiterante, alla lettura del quale rabbrividisce la pelle di coloro che temono il loro Signore. E poi si distende la pelle, insieme coi cuori, al ricordo di Allah. Questa è la guida di Allah, con cui Egli guida chi vuole. E coloro che Allah svia non avranno direzione. أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ. Forse colui che nel giorno della resurrezione tenterà invano di preservare il suo volto dal peggiore dei castighi? E sarà detto agli ingiusti: gustate quel che avete meritato. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Già coloro che li precedettero tacciarono di menzogna. Giunse loro il castigo da dove non se lo aspettavano. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah fece provare loro l'ignominia in questa vita, ma il castigo nell'altra vita è certamente più grande se lo sapessero. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Già in questo Corano abbiamo proposto agli uomini parabole di ogni genere affinché riflettano. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. Abbiamo dato loro un Corano arabo, esente da tortuosità, affinché temano Allah. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah vi propone la metafora di un uomo che dipende da soci in lite tra loro e di un altro che sottostà ad un unico padrone. Sono forse nella stessa condizione? Lode ad Allah, ma la maggior parte degli uomini non sanno. إنك ميت وإنهم ميتون. In verità dovrai morire, ed essi dovranno morire. ثم إنكم يوم القيامة عند رب بكم تختصمون. Poi, nel giorno della resurrezione, polemizzerete tra voi davanti al vostro Signore. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ Chi è più ingiusto di colui che inventa menzogne contro Allah e smentisce la verità quando essa gli giunge? Nell'inferno non c'è forse una dimora per i miscredenti? والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Chi ha recato la verità e chi vi si è attenuto, ecco i timorati. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. Presso il loro Signore avranno tutto quel che vorranno. Questa è la ricompensa di chi compie il bene. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Infatti Allah cancellerà le loro azioni peggiori e li compenserà per ciò che di meglio avranno fatto. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Non basta forse Allah al suo servo quando gli uomini ti minacciano con le sanzioni di coloro che adorano all'infuori di Allah? E coloro che Allah svia non avranno direzione. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ. Coloro che Allah guida, nessuno li potrà sviare. Allah non è forse eccelso? Padrone del castigo? وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Se domandassi loro chi ha creato i cieli e la terra, certamente risponderebbero Allah. Di, considerate allora coloro che invocate all'infuori di Allah. Se Allah volesse un male per me, saprebbero dissiparlo? Se volesse per me una misericordia, saprebbero trattenere la sua misericordia? Di, Allah mi basta, in lui confidino coloro che confidano. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Di, o popolo mio, agite la vostra maniera, io agirò la mia. Quanto prima saprete. يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Chi sarà colpito da un ignominioso castigo e chi riceverà un duraturo castigo? أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ. Su di te abbiamo fatto scendere il libro per gli uomini, secondo verità. Chi ne è ben diretto lo fa per se stesso. Chi si svia a suo danno. Tu non sei responsabile di loro. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah accoglie le anime al momento della morte e durante il sonno. Trattiene poi quella di cui ha deciso la morte e rinvia l'altra fino ad un termine stabilito. In verità in ciò vi sono segni per coloro che riflettono. Amit. اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. Si sono presi intercessori all'infuori di Allah? Di, anche se non possiedono niente? Anche se non comprendono niente? قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Di, tutta l'intercessione appartiene ad Allah, appartiene a Lui la sovranità dei cieli e della terra, a Lui sarete ricondotti. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Quando viene menzionato il nome di Allah, l'unico, si crucciano i cuori di coloro che non credono nell'altra vita. Quando invece vengono menzionati quelli che essi adorano all'infuori di lui, ecco che se ne rallegrano. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. دي O Allah, creatore dei cieli e della terra, conoscitore del visibile e dell'invisibile, tu giudicherai tra i tuoi servi sulle loro divergenze. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Se gli ingiusti possedessero tutto quel che si trova sulla terra e altrettanto ancora, nel giorno del giudizio non esiterebbero a darlo per riscattarsi dal peggiore dei castighi. Allah mostrerà loro quel che mai si sarebbero aspettati. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. E si manifesteranno i mali che avranno commesso e ciò di cui si burlavano li avvolgerà. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Quando una disgrazia lo colpisce, l'uomo ci invoca. Poi, quando gli concediamo una grazia, dice: «Questo proviene dalla mia scienza». Si tratta invece di una tentazione, ma la maggior parte di loro non lo sa. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. È quel che dicevano coloro che li precedettero, ma ciò che fecero non giovò loro. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. Li colpì il male che avevano fatto. Quelli di loro che sono stati ingiusti, presto saranno colpiti dai mali che avranno commesso, e non potranno ridurre Allah all'impotenza. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Non sanno forse che Allah concede a chi vuole e a chi vuole l'esina? In ciò vi sono segni per coloro che credono. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Di, o miei servi, che avete ceduto contro voi stessi, non disperate della misericordia di Allah. Allah perdona tutti i peccati. In verità Egli è il perdonatore, il misericordioso. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Tornate pentiti al vostro Signore e sottomettetevi a Lui prima che vi colga il castigo, che allora non sarete soccorsi. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Seguite dunque la meravigliosa rivelazione del vostro Signore, prima che all'improvviso vi colpisca il castigo mentre non ne avete sentore. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Prima che un'anima dica: ahimè, quanto sono stata negligente nei confronti di Allah. Certo sono stato tra coloro che schernivano. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. O prima che dica: se Allah mi avesse guidato, sarei stato certamente uno dei timorati. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. O ancora dica vedendo il castigo: se solo potessi tornare sulla terra, sarei uno di coloro che fanno il bene. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. No, già ti giunsero i miei segni e li tacciasti di menzogna. Ti mostrasti altero e fosti uno dei miscredenti. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Nel giorno della resurrezione vedrai coloro che inventavano menzogne contro Allah con i volti anneriti. Non c'è nell'inferno una dimora per gli arroganti? وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah condurrà al successo coloro che lo avranno temuto. Nessun male li colpirà e non saranno afflitti. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Allah è il creatore di tutte le cose e di tutte le cose è il garante. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Egli detiene le chiavi dei cieli e della terra. Coloro che non credono nei segni di Allah sono i perdenti. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُنِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Di, o ignoranti, vorreste forse ordinarmi di adorare altri che Allah? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. In vero a te e a coloro che ti precedettero è stato rivelato: se attribuirai associati ad Allah, saranno vane le opere tue e sarai tra i perdenti. Balillaha fa'bud wa kum minash-shakirin. No, adora solo Allah e sii fra i riconoscenti. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Non hanno considerato Allah nella sua vera realtà. Nel giorno della resurrezione, di tutta la terra farà una manciata e terrà ripiegati i cieli nella sua mano destra. Gloria a Lui, egli è ben al di sopra di quel che gli associano. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. sarà soffiato nel corno e cadranno folgorati tutti coloro che saranno nei cieli e sulla terra, eccetto coloro che Allah vorrà. Quindi vi sarà soffiato un'altra volta e si alzeranno in piedi a guardare. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. La terra risplenderà della luce del suo Signore. Sarà aperto il registro e saranno condotti i profeti e i testimoni. Saranno giudicati con equità e nessuno subirà un torto. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Ogni anima sarà ricompensata con esattezza per quello che avrà fatto. Egli ben conosce quello che fanno. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق I miscredenti saranno condotti in gruppi all'inferno. Quando vi giungeranno, saranno aperte le sue porte e i suoi guardiani diranno: «Non vi giunsero forse i messaggeri della vostra gente che vi recitarono i versetti del vostro Signore e vi avvertirono dell'incontro di questo giorno?» Risponderanno: «Sì, ma la promessa del castigo si realizza contro i miscredenti». قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Verrà detto loro: «Entrate per le porte dell'inferno per rimanervi in perpetuo. Quant'è orribile la dimora degli arroganti!» وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. E coloro che avranno temuto il loro Signore saranno condotti in gruppi al paradiso. Quando vi giungeranno, saranno aperte le sue porte e i suoi guardiani diranno loro: «Pace su di voi, siete stati buoni. Entrate qui per rimanervi in perpetuo». وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Risponderanno: lode ad Allah che ha mantenuto la sua promessa nei nostri confronti e ci ha fatto eredi della terra. Abiteremo nel paradiso ovunque vorremo. Quant'è magnifica la ricompensa di coloro che hanno ben operato. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب In quel giorno vedrai gli angeli circondare il trono e rendere gloria e lode al loro Signore. Sarà giudicato tra loro con equità e sarà detto: la lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi.